Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza dal 1977, libera da padroni e pubblicità. La voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere e uno dei modi è la sottoscrizione sul conto corrente postale 61804001. Oppure si può, consultando il sito della radio, sull'home page c'è l'opzione sostieni per la modalità PayPal, e quindi sottoscrivere per via telematica. Tra qualche istante, anzi subito, Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Le informazioni sulla trasmissione, sulla scaletta di oggi, le trovate sul sito della radio, sulla colonna centrale dell'home page, alla voce trasmissioni Visionari. C'è poi anche la pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming, perché sempre sul sito della radio, sull'home page, c'è Ascolta la diretta. In collegamento con Raul Zecca, regista del documentario Come schiavi in libertà, che sarà in programmazione sulla TV svizzera RSI il 29 febbraio prossimo, cioè lunedì. Raul, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno, grazie a voi. Allora, raccontaci un po' di questo lavoro, di questo documentario. Ma guarda, questo è un documentario che io ho realizzato tra le piantagioni di canna da zucchero della Repubblica Dominicana, e diciamo che indaga quelle che sono le condizioni di vita e di lavoro soprattutto dei braccianti che lavorano lì, ma che sono nel 90% dei casi provenienti da Haiti. Quindi c'è il tema delle migrazioni, spesso migrazioni forzate, e di conseguenza il tema dello sfruttamento nei campi, poiché le condizioni che appunto ho documentato in questo documentario sono quelle di lavori che non rispettano i minimi diritti sindacali. E dunque, da un lato si tratta di un lavoro, diciamo, di inchiesta fatto sul campo con una serie di interviste, e dall'altro è un lavoro che evidentemente ha una vena di denuncia, poiché cerca anche di rendere conto di quelle che sono le dinamiche che fanno sì che questo sfruttamento sia ancora in vigore da parte di quelle poche industrie dello zucchero che si spartiscono enormi interessi all'interno dell'isola di Spagnola e in particolare nella Repubblica Dominicana. Allora, facciamo un passo indietro. Come era nata l'idea di questo documentario? Come parte? Ma guarda, in realtà io sono stato nella Repubblica Dominicana circa 5 mesi per realizzare quella che era una ricerca antropologica. Quindi anche da qui ne è uscito poi un libro che è stato pubblicato un paio di mesi fa dallo stesso titolo, Come schiavi in libertà. Ovviamente, avendo molto tempo a disposizione, facendo una vera e propria ricerca sul campo, ho scattato moltissime fotografie e ho dedicato parecchio tempo anche a realizzare delle riprese. E quindi l'idea di realizzare un vero e proprio documentario è nata in realtà al ritorno, in seguito. Rivedendo tutte le immagini girate, mi sono reso conto che c'era appunto la possibilità di tirarne fuori un documentario. La durata è breve, perché stiamo parlando di 20 minuti, ma sono 20 minuti molto intensi e condensati, dove soprattutto do spazio alla voce dei braccianti intervistati, e attraverso testimonianze che appunto sono riuscito a guadagnarmi, per così dire, a guadagnare la loro fiducia, la loro confidenza, proprio grazie a tutto il tempo che ho trascorso insieme a loro, condividendo le loro giornate, la loro quotidianità. Raul, partiamo proprio dai protagonisti. Ecco, quali sono le condizioni di lavoro che si trovano a vivere? Ma guarda, innanzitutto il contesto in cui vivono questi braccianti è un contesto agricolo, evidentemente, ma i lavoratori vengono alloggiati in vere e proprie baracche disperse all'interno delle piantagioni di canna da zucchero, e spesso distanti anche decine di chilometri dal primo centro abitato. Si tratta quindi di baracche non raggiunte da energia elettrica, da acqua corrente, prive di qualsiasi minimo servizio basico, dove non sono presenti scuole, non sono presenti ospedali né dispensari medici, e quindi sebbene si tratti di vere e proprie comunità, quindi dove ci abitano non solo i lavoratori ma le loro famiglie, i bambini, le donne, molti anziani, in realtà sono comunità invisibili, non presenti nemmeno sulle cartine geografiche della Repubblica Dominicana. Per quanto riguarda le condizioni di lavoro, possiamo semplicemente ricordare quello che accadeva 200 anni fa, ai tempi della schiavitù, di cui il titolo anche Come schiavi in libertà, che è poi la risposta che mi diede un lavoratore quando gli chiedi di definire la sua condizione. Non sono schiavi, quindi sono come schiavi, nel senso che non hanno catene alle caviglie, non c'è nessuna frusta che li obbliga al lavoro, e dall'altra parte però non sono nemmeno liberi di andarsene, poiché vige su di loro una condizione tale di sfruttamento per cui non riescono a guadagnare nemmeno il dispensabile per potersi allontanare dalla piantagione. Mm-hmm. E dunque, per quanto non ci siano recinti che li trattengano nelle piantagioni, restano prigionieri di quei campi. Mm-hmm. Le condizioni sono terribili, quindi la giornata è ritmata semplicemente dal lavoro, ci si sveglia alle 4 del mattino, alle 5 ci si incammina verso la piantagione e si comincia a tagliare canna da zucchero intorno alle 6 del mattino per terminare alle 18, quando si rientra lentamente alla comunità, ci si prepara un pasto che sarà l'unico della giornata a base di riso e un pugno di fagioli, per poi coricarsi in queste baracche dove appunto i lavoratori sono alloggiati in totale sovraffollamento, addirittura condividendo spazi di meno di 10 metri quadrati in 7-8 persone. Allora, scusaci Raul, era caduta la linea, eravamo alla domanda sui numeri delle persone coinvolte nelle piantagioni e poi se ci sono forme di auto-organizzazione tra i lavoratori. Sì, ecco, rispetto ai numeri, allora si è calcolato che le comunità che ci sono disperse tra le piantagioni possono essere circa 500 e coinvolgono un numero di lavoratori comprensivo delle loro famiglie, dei bambini, delle donne, che può essere intorno alle 250.000 unità. Si tratta però di stime del tutto indicative, poiché la maggior parte dei braccianti, come dicevo, sono migranti. Dunque hanno nella maggior parte dei casi valicato il confine in modo irregolare e non esistono per lo Stato dominicano, non sono registrati, non esiste alcun censo a questo proposito, quindi sono assolutamente delle stime indicative. Rispetto alla seconda domanda che mi facevi, quindi se esistono forme di auto-organizzazione, beh, qui il discorso è molto più complicato. Sì. Nel senso che purtroppo i lavoratori, essendo privi di qualsiasi tipo di tutela, non godono nemmeno del diritto di associazione, nel senso che qualsiasi tipo di lamentela, di protesta, di tentativo di organizzazione dal basso e di unificazione dei lavoratori viene subito diciamo risolta con il licenziamento, che consiste semplicemente nel ritirare al lavoratore un tesserino identificativo che viene dato all'inizio della stagione del raccolto e che serve per lavorare. Senza quel tesserino il lavoratore non è più in grado di lavorare e quindi non è più in grado di mantenersi. Dunque vige un ricatto basato unicamente sulla sopravvivenza. Dopodiché ci sono altre strategie che consistono nel far lavorare i braccianti di una comunità in luoghi diversi e mai insieme, in modo che appunto non riescano a trovare dei momenti di organizzazione, poiché poi tutta la vita loro la conducono tra le piantagioni, quindi vengono fatti girare in piantagioni diversi, lavorare in brigate con lavoratori che provengono da comunità diverse, e quindi è impossibile proprio riuscire a trovare il momento per trovare un accordo comune, avere del tempo per organizzarsi e portare avanti degli scioperi. Quei pochi scioperi che sono stati tentati sono stati appunto semplicemente repressi con l'arma del ricatto del licenziamento. Manodopera a basso costo, non qualificata, non ne manca, quindi per il datore di lavoro, che sono le imprese dello zucchero dominicano, il problema si risolve così. Ecco, passiamo ai padroni, insomma, alla controparte. Per quanto riguarda queste aziende, quante sono e quanto fatturano nelle stime, insomma, che sei riuscito a capire? Sì, diciamo che il territorio coltivato a piantagioni di canna da zucchero della Repubblica Dominicana è spartito tra tre grandi imprese che fanno riferimento a tre grandi famiglie. Una di queste, tra l'altro, è originariamente di provenienza italiana, di una famiglia genovese che si chiama la famiglia Vicini, un'altra famiglia di origini cubane scappata in seguito all'arrivo dei castristi sull'isola, e un'ultima famiglia è del Guatemala. Ecco, queste tre famiglie fanno, diciamo, il bello e il cattivo tempo nel paese, poiché non solo hanno interessi in quella che è l'agricoltura, la coltivazione della canna da zucchero, ma in ulteriori settori come l'immobiliare, il turismo, le banche ed evidentemente la politica. Senti, rispetto... Sì. Stavi continuando, scusami. No, rispetto, dicevo, all'entità di questo mercato dello zucchero, in realtà non stiamo parlando di grandi cifre. Ormai la Repubblica Dominicana produce meno dell'1% di quello che è il prodotto zuccherifero nell'industria internazionale. Ormai paesi come il Brasile, l'India o la Cina dominano i mercati. È simbolico però ricordare che il 90% dello zucchero prodotto nella Repubblica Dominicana viene acquistato al doppio del prezzo di mercato dagli Stati Uniti, che godono di una quota preferenziale nei confronti di questo zucchero. Questo tipo di pratica era nata proprio con la caduta di Cuba da parte del governo, diciamo, americano, e quindi avevano eletto la Repubblica Dominicana come nuova terra e risorsa, bacino per la produzione dello zucchero. Quindi anche a questo proposito è interessante notare come esista un contratto di libero commercio tra gli Stati Uniti e la Repubblica Dominicana, che prevede ovviamente l'osservanza dei più elementari diritti sul lavoro, e come un'ispezione ormai datata 2013 abbia verificato che questi diritti vengono sistematicamente violati, eppure gli Stati Uniti non hanno provveduto a rimuovere questo contratto di libero commercio. Una risposta è molto semplice, e una di queste tre famiglie, forse ormai quella che a livello territoriale è più inserita tanto nella Repubblica Dominicana quanto negli Stati Uniti, è la famiglia Fanjul, che riversa, e questo è consultabile pubblicamente, ormai milioni di dollari tanto nelle casse del Partito Democratico quanto in quelle del Partito Repubblicano Americano. Un'equa distribuzione. Esatto, sì, perché sono quattro fratelli, due non si interessano, diciamo, di affari, e gli altri due si spartiscono la politica, uno è democratico e l'altro è repubblicano, e sembra più che altro però una strategia proprio per avere il piede in due scarpe. Allora Raul, il 29 febbraio, lunedì, sulla televisione svizzera RSI, volevo sapere se in rete ci sono pagine dedicate al tuo lavoro. Ma guarda, sì, digitando come Schiavi in libertà ora appaiono parecchie cose, ho scritto diversi articoli, viene fuori il libro che è appunto stato pubblicato un paio di mesi fa dalle edizioni Arcoiris di Salerno, e a brevissimo anche il DVD del documentario, che appunto sarà visibile lunedì sulla televisione svizzera, sarà in commercio sempre distribuito dalle edizioni Arcoiris. Quindi, insomma, di materiale ce n'è. Bene. Raul, un abbraccio, a risentirci presto. Vi ringrazio, a voi, arrivederci. Ciao. Raul Zecca, regista del documentario Come Schiavi in Libertà, il 29 febbraio, lunedì, sulla televisione svizzera RSI. In collegamento con Alessandro Rossetti dell'ANAC, Associazione Nazionale Autori Cinematografici, sul cinema nelle biblioteche del Lazio, iniziativa che prenderà il via il prossimo mercoledì 2 marzo. Alessandro, ben ritrovato su queste frequenze. Grazie, buongiorno a tutti. Ci racconti un po' di questa iniziativa? Sì, dunque, questa iniziativa nasce da un bando del Lazio al quale l'ANAC ha partecipato e ha vinto il bando. Il bando è stato fatto l'altro anno, poi c'è stata, diciamo, una lunga gestazione perché mancavano i fondi. L'assessorato si è impegnato molto con l'Idea Ravera a reperire questi fondi, e finalmente nel novembre di quest'anno ci hanno dato la comunicazione che potevamo partire. Quindi in fretta e in furia abbiamo radunato di nuovo tutti i contatti che avevamo preso con le biblioteche del Lazio e che erano parte di questo progetto, e siamo riusciti a compilare, a comporre questo progetto. Alessandro, quante sono le biblioteche coinvolte e in quali zone? Dunque, noi abbiamo diviso il Lazio in quattro zone, da nord a sud, e abbiamo raccolto, diciamo, alcune biblioteche, sono 16, in quattro poli. Le biblioteche sono del Viterbese, Viterbo, Soriano del Cimino, Canepina e Vignanello, poi c'è il sistema bibliotecario del Ceretano Sabatino, che c'è Anguillara, Campagnano, Ladispoli, Formello, Santa Marinella, il sistema bibliotecario dei Castelli Romani, Grotta Ferrata, Albano, Genzano, e il sistema bibliotecario del Sud Pontino, Fondi, Monte San Biagio, Castelforte, Lenola. Sì. Senti, per invece il periodo di tempo abbracciato va dal 2 marzo fino al... al settembre di quest'anno. Settembre di quest'anno. Escluso agosto per ovvi motivi, si va in vacanza, sono chiuse, sì, le biblioteche, insomma. E quali sono i titoli che proporrete in questa, in questo tour? No, noi abbiamo selezionato 20 film. Okay. Ovviamente la selezione ha dovuto tener conto di alcuni fattori, perché noi proponiamo il film con alla presenza degli autori. Alcuni film, diciamo, sono stati esclusi perché gli autori ci hanno detto che non erano disponibili, chi stava in Russia a girare, chi era impegnato per tutto l'anno, insomma, quindi abbiamo dovuto tener conto anche di queste esigenze, quindi non è una lista che deve ritenersi esaustiva di tutte le esigenze. Comunque sono 20 titoli al quale magari durante il corso della programmazione si aggiungerà qualche titolo per via della complessità del progetto. I film sono questi: A quadro di Stefano Lodovichi, A solo di Laura Morante, Bella e perduta di Pietro Marcello, Viaggio di Pasquale Scimeca, Il venditore di medicine di Antonio Morabito, La terra dei santi di Fernando Muraca, Neve di Stefano Incerti, Patria di Felice Farina, Ridendo e scherzando di Paola e Silvia Scola, Spaghetti Stori di Ciro De Caro, Arianna di Carlo Lavagna, Banana di Andrea Giublin, Ben-Hur di Massimo Andrei, Bolgia totale di Matteo Scifoni, La bella gente di Ivano De Matteo, Marina di Sinconix, Non essere cattivo di Claudio Caligari, Per amor vostro di Giuseppe Gaudino, di Seven Little Killers Happy Days di Matteo Andreolli e Take Five di Guido Lombardi. Allora, in alcuni casi saranno presenti proprio gli autori? No, noi facciamo in modo, il progetto è presentato proprio perché sono fatte le proiezioni alla presenza, okay, degli autori. Quindi... invece loro possono partecipare, gli sceneggiatori, i produttori, comunque una figura che ha partecipato, sì, al, sì, film. Sì, sì. Ok. Senti, e per saperne di più, le informazioni, ci dai un sito internet di riferimento? www.cinemadelebiblioteche.it. Benissimo. Lì troverete proprio tutto. Alessandro, io ti ringrazio e ci sentiamo presto per ulteriori novità. D'accordo. Il prossimo film comunque a Viterbo è Viaggio di Pasquale Scimeca. Si terrà anche una conferenza stampa alla presenza dell'assessore Ravera. Questo per la prima data, il 2 marzo. La prima data, il prossimo, okay, 2 marzo. Benissimo. Alessandro, a presto. Ciao. A presto. Grazie. Alessandro Rossetti di ANAC sul cinema nelle biblioteche del Lazio, iniziativa che prenderà il via il 2 marzo prossimo. Ritroviamo Gianluca Cerasola, regista del documentario Astro Samantha, la donna dei record nello spazio, in uscita in sala per 2 giorni, il 1° e il 2 marzo prossimi. Gianluca, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a tutti. Come va? Tutto bene? Tutto bene, stiamo aspettando l'uscita, in preparazione, in promozione per il film che uscirà, come hai detto tu, il 1° marzo. Tra l'altro è appena giunta notizia che siamo in sala con più di 180 sale in Italia, quindi sono molto contento e in attesa di verificare l'ordine del risultato di questa uscita cinematografica. Del resto Samantha, come tutti ormai sanno, è un personaggio che rimarrà nella storia italiana e del cinema italiano. Abbiamo realizzato questo documentario, abbiamo seguito per più di 3 anni, ormai posso dire di conoscere buona parte dei luoghi dove si è addestrata e dove ha preparato tutta la sua missione, insomma. Quindi sono contento di vedere e di scoprire come andrà e se il pubblico apprezzerà questo documentario. Insomma, abbiamo provato a rendere questo documentario raccontando le cose più curiose, cioè perché tutti si aspettano di conoscere cosa si fa nello spazio, e noi abbiamo voluto raccontare anche le cose più particolari, come si mangia nello spazio e dove si va in bagno nello spazio, che sembrano cose semplici, mentre poi alla fine sono cose che non sono poi così semplici da fare nello spazio, insomma. Pronto? Sì, Gianluca, ti sento. E com'era cominciata questa avventura? Questa avventura è nata 3 anni fa, quando appunto si vociferava l'idea che una donna potesse partire nello spazio. Ho iniziato a documentarmi, a prendere i primi contatti con l'Agenzia Spaziale Europea, l'Agenzia Spaziale Italiana, la NASA e tutto ciò che gira intorno al mondo spaziale. Ho raccontato il progetto a Samantha, mi ricordo il primo collegamento che feci con Samantha, lei era a Houston facendo questo videoconferenza dove tutti erano un po' scettici perché non si aspettavano che lei potesse apprezzare un progetto del genere, insomma. Quindi erano tutti molto molto scettici, volevano sapere cosa lei ne pensasse. Quindi abbiamo fatto questo collegamento, le ho spiegato la mia idea, che era quella di seguirla per tutto il periodo di addestramento. A lei è piaciuta l'idea e poi da lì, insomma, è andato tutto. Abbiamo iniziato le procedure burocratiche, che sono, come potete immaginare, lunghissime per avere accesso a luoghi che fino ad oggi, insomma, siamo riusciti ad entrare tra virgolette per primi. Abbiamo per primi raccontato cosa c'è dietro il mondo degli astronauti, siamo entrati per primi e abbiamo portato al cinema i luoghi di addestramento più particolari, sia dal punto di vista della NASA, quindi negli Stati Uniti, dove c'è la piscina più grande, una delle piscine più grandi del mondo, dove è ricostruita tutta la base spaziale, dove si addestrano sott'acqua gli astronauti. Siamo andati a Star City, vicino Mosca, dove c'è il centro di addestramento russo, dove si allenano appunto i cosmonauti, che è un luogo particolarissimo, sembra di essere veramente indietro di 70 anni per quanto riguarda la logistica e l'estetica dei palazzi, mentre invece poi all'interno sono tecnologicissimi proprio, c'è una tecnologia che fa spavento, addirittura a mio avviso anche superiore a quella degli Stati Uniti. Quindi, insomma, è molto molto particolare. Abbiamo visto i luoghi fino ad oggi, insomma, inesplorati, abbiamo raccontato cose molto molto particolari, abbiamo voluto rendere, insomma, voluto far sì che tutto ciò che c'è dietro il mondo degli astronauti e il mondo di Samantha fosse raccontato in maniera semplice e curiosa. Insomma, è un documentario che racconta la vita di Samantha, gli ultimi 3 anni di Samantha. Per la prima volta abbiamo girato realmente nello spazio, perché quando Samantha era in orbita ci siamo sentiti e attraverso una sua telecamera che aveva con lei, lei faceva delle riprese, e quindi posso dire che oltre ad aver fatto l'astronauta, Samantha è stata anche parte della nostra truppa, perché ha documentato e ha ripreso con le sue telecamere all'interno della base spaziale del materiale che poi abbiamo montato nel film. Quindi possiamo dire che forse per la prima volta al mondo ne abbiamo realmente girato immagini nello spazio, che poi sono state utilizzate per un film al cinema, insomma. Gianluca, per chi ci ascolta, quali sono i record di Samantha? I record di Samantha sono tanti, noi li raccontiamo tutti nel film. Ovviamente Samantha è la prima donna in assoluto ad aver raggiunto il record di permanenza nello spazio in un unico viaggio all'interno della base spaziale. È rimasta 200 giorni, quindi insomma un record assoluto. Poi ha avuto anche altri record, tra virgolette, quello più bizzarro a mio avviso è quello: lei è la donna, l'astronauta che ha realizzato e bevuto il primo espresso nello spazio. Poi ovviamente è l'astronauta europeo ad essere rimasta più a lungo nello spazio. Insomma, ha moltissimi record, tra virgolette, poi insomma il nostro documentario documenta, oltre a tutti i record che lei ha raggiunto nello spazio, anche tra virgolette il fatto di essere il primo documentario nelle sale cinematografiche che è stato realizzato e girato a distanza tra terra e spazio. Allora, quando appunto Samantha Rinaldi ci sentivamo, e quindi forse per la prima volta in assoluto un regista ha potuto documentare tutto ciò che accade nello spazio a tantissimi chilometri di distanza. Quindi, insomma, tra virgolette abbiamo raggiunto sia tecnicamente che visivamente dei record che spero il pubblico apprezzerà in questo documentario che racconta gli ultimi 3 anni di Samantha, insomma, raccontando tutto ciò che c'è nello spazio e nella vita di Samantha, Samantha come donna, Samantha come astronauta, raccontiamo i luoghi di Samantha, perché ricordiamo che abbiamo attraversato 3 continenti, siamo stati con Samantha in Europa, ovviamente al centro di Colonia, l'Ente Spaziale Europeo, poi siamo stati con lei in tutti i centri NASA di addestramento a Houston, siamo andati con lei in Russia, a Star City, e abbiamo viaggiato con lei, l'abbiamo documentata anche quando era in Kazakistan per la partenza, che è molto un luogo molto particolare, la zona tra virgolette, la zona di controllo e di isolamento, perché tutti gli astronauti per un periodo sono in quarantena e non possono essere avvicinati, ed è anche molto particolare perché tutti gli astronauti entrano in contatto con i loro familiari, con gli amici e anche con i medici, i tecnici, gli ingegneri che lavorano con loro attraverso il vetro, perché ovviamente devono limitare tutti i possibili contatti per far sì che siano preservati prima della partenza e non contraggano malattie o virus di diverso genere. Quindi è una situazione molto particolare e tra virgolette tecnicamente anche bizzarra, perché come potrai immaginare in Kazakistan fa meno, all'epoca quando insomma ci siamo andati noi faceva meno 25 gradi la temperatura media, quindi ogni volta avevamo delle attrezzature particolari, camere particolari, obiettivi, però a meno 25 gradi ogni volta che la nostra truppa tirava fuori qualcosa la batteria andava giù in un secondo, quindi sì. Anche dal punto di vista tecnico è stata un'avventura molto particolare, molto molto bella. Bene Gianluca, allora il 1° e 2 marzo Astro Samantha, la donna dei record nello spazio, nelle sale, dicevi più di 150 sale, a questo punto un in bocca al lupo e a risentirci presto. Credete, grazie, e invito tutti ad andare nella sala e a scoprire la vita di Samantha e il viaggio nello spazio. Grazie mille, a presto. Ciao Gianluca. Ciao. Gianluca Cerasola è il regista di questo lavoro. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. La scaletta e le informazioni le trovate sul sito della radio, sull'home page, alla voce trasmissioni Visionari, e sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Eccoci con Luigi Abiusi, direttore della 5ª rassegna Registi fuori dagli schermi ai cineporti di Bari, Lecce e Foggia a partire dal 25 febbraio, oggi quindi, giovedì 25. Luigi, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao, come stai? Bene, tu? È abbastanza affaticato, sai. Senti, comincia oggi, si tratta di una 5ª edizione che però è la prima volta che affrontiamo. Raccontaci un po' di questa storia. Guarda, io credo che sia una storia abbastanza in sintonia con quello che fate voi, nel senso che tutto nacque perché si voleva mostrare un cinema che in Italia veniva fermato all'epoca, stiamo parlando dell'epoca berlusconiana, veniva fermato questo cinema dalle cortine appunto di una politica passatista, e quindi noi si andava in giro per i festival e si vedevano molti film splendidi, molti capolavori, e constatavamo che questi film restavano fuori dai cinema. E prima ne venne fuori un libro che si intitolava appunto Registi fuori dagli schermi. E poi mi fu proposto appunto di dirigere questo festival di ricerca e abbiamo iniziato appunto questa attività circa 5 anni fa. Senti, questa edizione si ritroverà in 3 piazze, quanti sono i lavori che porterete in questi 3 schermi? Guarda, in realtà non ho ancora un computo preventivo, anche perché non me lo sono assolutamente imposto. Sì. Mi piace guardare a questo festival come a un laboratorio in itinere, perciò valuterò di volta in volta, che ne so, i casi cruciali che per esempio il cinema contemporaneo, il cinema d'arte presenta, e quindi estenderò gli inviti ai vari registi, ai critici cinematografici che interagiscono di volta in volta con il pubblico e con altri critici, con la stampa, eccetera. Sì. Diciamo che ho già delle sicurezze in questo senso, ho già dei altri registi che saranno qui in Puglia nei prossimi mesi. Posso farti il nome di Pedro Costa, il regista straordinario, il regista portoghese, che dovrebbe essere qui in Puglia a fine aprile. Sì. E poi altri registi italiani che hanno esordito ma che non hanno trovato molto spazio nelle distribuzioni nazionali e così via. Senti, il titolo gioca su un doppio senso, schemi e schermi, perché la R è tra parentesi, quindi immagino anche non solo un problema, registi che hanno affrontato non solo un problema di visibilità rispetto alla distribuzione, ma anche hanno una originalità stilistica e artistica. Sì. Sì, e spesso insomma le due cose sono collegate, cioè gli schermi, cioè l'essere fuori dagli schermi spesso dipende dal fatto di essere fuori dagli schemi, e quindi ci si trova di fronte a un cinema che alcuni distributori considerano, come dire, non divulgabile, però sì, è quello che mi interessava soprattutto. Sono contento che tu mi abbia chiesto questo. Non è che all'inizio mi interessasse, quando abbiamo scritto questo libro, non mi interessava la questione dei registi che restavano fuori dagli schermi, mi interessava a monte il problema, cioè il fatto che facessero un cinema appunto fuori dagli schemi, un cinema spesso sperimentale, un cinema fulgido, vivo. Sì, ecco. Sì. Quando invece in Italia molto spesso questo tipo di rassegne o di festival si concentrano soprattutto, diciamo così, su un cinema morto, cioè retrospettive in continuazione su quello che è stato il cinema, su quello che è stato il cinema italiano, per esempio. A me interessa invece quello che è il cinema, quello che è il cinema italiano, quello che potrebbe essere il cinema italiano, quindi diciamo un palinsesto visivo assolutamente vivo. Sì. Vivido. Sì, sì, sì. Senti Luigi, Bari, Lecce e Foggia saranno in contemporanea o c'è un calendario successivo, e poi quali gli appuntamenti sono quotidiani, settimanali o di che tipo? Guarda, in realtà quello che faremo è questo, cioè mentre gli altri anni tutto si concentrava a Bari, cioè le presenze dei registi e dei critici a confronto erano concentrate soprattutto a Bari, anzi solamente a Bari, e negli altri due plessi venivano dati gli incontri in streaming e poi venivano date le proiezioni normali dei vari film. Quest'anno abbiamo deciso di essere presenti anche a Foggia e a Lecce, insomma, in ossequio a questa perifericità che a noi piace molto, e quindi i registi e i critici saranno presenti alcune volte a Bari, altre volte a Lecce, altre volte a Foggia. Credo che la cadenza sarà più o meno quindicinale, cioè conto di fare almeno due incontri al mese, e nel caso in cui mettiamo un regista e ospite a Foggia, i cineporti di Bari e di Lecce saranno collegati in streaming con appunto Foggia, e quindi il pubblico comunque che andrà nelle sale di Bari e Lecce potrà comunque assistere e all'incontro tra registi, critici, eccetera, e alla proiezione del film. Senti, c'è uno spazio internet per le informazioni? Allora, a parte la pagina della Puglia Film Commission, sì, abbiamo, c'è la pagina della rivista che in qualche modo è alla base proprio dialettica della rassegna, che è la rivista che io dirigo, rivista di cultura cinematografica che da 5 anni dirigo, che si chiama uzak.it. Sì. Lì è possibile trovare una pagina dedicata interamente alla rassegna di quest'anno, e poi ci sono anche le edizioni passate con tutti gli ospiti che abbiamo avuto in questi anni, da Victor Erice, il grandissimo regista spagnolo, fino a Todd Solondz, a Roberto Minervini, a Tsukamoto, eccetera. Ma c'è anche la pagina Facebook di Uzak, per avere, diciamo, le notizie di volta in volta, notizie fresche. Aggiorniamo la pagina minuto per minuto, e lì è possibile trovare quante più notizie possibile. Bene, Luigi, io ti ringrazio, un in bocca al lupo e a risentirci per le prossime novità. Grazie a te, a presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Luigi Abbiusi, direttore della quinta rassegna Registi Fuori dagli Schermi ai Cineporti di Bari, Lecce e Foggia, a partire da oggi, giovedì 25 febbraio. Ritroviamo Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per parlare con lui del film Amore, Furti e altri guai, in uscita in sala oggi, giovedì 25 febbraio. Paolo, ben ritrovato. Ben ritrovati voi, buon pomeriggio a tutti, grazie di averci chiamato anche per questa uscita. Un film curioso, si parla di Palestina, un bianco e nero e con toni anche di commedia a tratti, una storia curiosa, raccontaci un po'. Sì, il film è un'opera prima di Muayyad Alayan ed è un'opera prodotta tutta in Palestina dalla PAL Cine, che è la sua casa di produzione, ed è stato selezionato per Berlino nella sezione Panorama, che è la seconda sezione per importanza a Berlino l'anno scorso, e questo è un film che cerca di raccontare l'assurdo della vita in Palestina, per evitare i toni che sono più soliti, che siamo più soliti vedere sugli schermi. C'è il conflitto arabo palestinese-israeliano, che ovviamente c'è, che affligge, diciamo, la vita quotidiana dei palestinesi, ma anche almeno in parte degli israeliani. Ecco, però lui cerca di raccontare l'assurdo di questa vita, e da qui i toni da commedia di questa storia, che però vuole raccontare in bianco e nero, perché i colori del bianco e nero, le sfumature del bianco e nero rendono meglio l'assurdità di alcune situazioni. E il protagonista è un antieroe, possiamo dire, perché è un ladro d'auto che non vuole lavorare onestamente, regolarmente, ma vuole ruba auto, ma in realtà il suo sogno è andare via dalla Palestina, non vuole essere un militante, non ha voglia di una vita normale, dice lui, però gli capita praticamente all'inizio del film, una delle auto che ruba ha però dentro un soldato israeliano rapito dai militanti palestinesi, e da lì iniziano i suoi guai. L'amore qual è? L'amore è per una donna, Manal, che invece è sposata a un ricco palestinese. E poi, terza cosa, lui nel sognare di andare via, nel lavorare per cercare soluzioni per andare via dalla Palestina, trova un improvvisato procuratore palestinese che gli procura, dice lui, un contratto con la Fiorentina per andare in Italia a giocare, però per fare questo deve dargli $10,000, e quindi deve trovare questi $10,000, quindi anche rubando, vendendo, insomma, e tutte le peripezie di Musa, il protagonista di questo film, sono appunto amore, furti e altri guai che combina e che gli capitano in questa storia. Però si vede in realtà la realtà palestinese, e anche la capacità di trovare sintonia col soldato israeliano, con un soldato proprio di ultimo rango, quindi un ultimo come lui, e alla fine si trovano in sintonia in quanto ultimi, cioè non importa più se sono palestinesi o israeliani, in teoria avversari, ma sono ultimi, e quindi in quanto ultimi si trovano d'accordo su alcune cose. E quindi tutti questi toni da commedia, da dramma, e quindi l'assurdo e il grottesco sono la chiave del film, che poi è commentato musicalmente da una musica jazz scritta da un musicista belga. Oh, Paolo, dicevi un'opera prima, anche una giovane casa di produzione palestinese di cinema. Sì. Raccontaci un po' di questa casa, che non conosciamo. Beh, Muayyad insieme a suo fratello Rami ha fondato questa casa Palcine, che è chiaro che è Palestina in cinema, e cerca adesso di produrre altri film, sta già lavorando al secondo, cercando di ottenere delle coproduzioni. Quest'anno il Festival di Berlino lo ha reinvitato per aiutarlo a trovare delle coproduzioni, perché questo primo film è solo palestinese, infatti ha solo la nazionalità palestinese, per cui è chiaro che è fatto con low budget e pochi soldi. Quello che loro hanno in mente è anche di formare delle persone, dei lavoratori del cinema lì in Palestina. Infatti lui lavora anche ad una scuola di cinema lì in Palestina, e questo è molto importante, perché poi cerca anche di sviluppare la parte delle proiezioni dei film, cioè quindi di risviluppare la rete di cinema in Palestina, che è abbastanza debole in questo momento, anche perché molte sale hanno chiuso proprio a causa delle vicende belliche. Per cui non è solo una casa di produzione, ma è proprio un'attività imprenditoriale, ma per risvegliare l'economia e la vita culturale, l'economia culturale del territorio palestinese, dei territori dell'autorità nazionale palestinese. Per cui credo che, al di là di questo film, che la prima uscita internazionale di questa casa di produzione, però credo che la loro attività sia molto molto interessante da sostenere. Tra l'altro, Paolo, il regista in questi giorni è qui per lanciare il film in Italia. Sì, esatto, infatti oggi ha incontrato la stampa stamattina, oggi pomeriggio incontrerà il pubblico a Roma all'Apollo 11, che è anche una sala secondo me molto molto interessante di Roma, che stiamo cercando di programmare da qualche mese continuativamente. Questa è anche un'altra sfida di Cineclub Internazionale, grazie ad Agostino Ferrente e a tutto il gruppo di Apollo 11. Poi domani incontreremo il pubblico col regista al Beltrade di Milano, sabato al Lux di Padova e domenica all'Eden di Brescia, ma il film poi esce anche in questa settimana anche in altre città italiane, quindi ci sarà modo per il pubblico di incontrare almeno in queste città il regista Muayyad. Senti, per saperne di più in rete si può cercare sia sulla pagina Facebook, esatto, che sul la sito internet di Cineclub Internazionale, il sito di cineclubinternazionale.eu, la pagina Facebook è sempre aggiornata, sono tutti aggiornamenti, recensioni, appuntamenti, per cui assolutamente sì, e poi comunque anche il sito cineclubinternazionale.eu. Benissimo, Paolo, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie a voi, buona continuazione di lavoro, crepi il lupo, buon lavoro. Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per parlarci del film Amore, Furti e Altri Guai, in uscita in sala oggi giovedì 25 febbraio, come sentivamo a Roma all'Apollo 11 vicino Piazza Vittorio. In collegamento con Gabriele Mainetti, regista del film Lo chiamavano Gig Robot, in uscita in sala oggi giovedì 25 febbraio, tra l'altro un po' in corsa tra un posto e l'altro. Gabriele, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao a tutti, è un piacere essere qui via telefono. Senti, allora, un film che ho avuto modo di vedere all'anteprima stampa qui a Roma, un oggetto curioso, come è uscito fuori, Gabriele? Beh, una cosa, era un film che mi sarebbe piaciuto poter vedere in Italia, fatto però con tutti i crismi di quello che è poi il nostro cinema italiano, quindi era una sfida interessante declinare qualcosa che per certi aspetti non ci appartiene e trovare poi la sua appartenenza e la speranza poi dopo di avere un supereroe tutto italiano e che non imiti nulla, quindi è nata così. Siamo andati a pescare in quell'immaginario popolare, nello specifico quello mio era quello di Bim Bum Bam, io avevo la televisione come balia, andavo sempre davanti alla televisione e ci siamo imbattuti in Gig Robot, che poi in realtà è solo un pretesto, perché la protagonista del film, che si rifugia in questo mondo cartonato dove pensa che tutti i personaggi siano i personaggi del cartone in questione, quando scopre che al piano sopra di casa sua vive uno che ha acquistato una super forza, per lei è chiaramente Hiroshi Shiba è colui che si può trasformare in Gig. Ma per chi non conosce Gig Robot non c'è problema, insomma, è intelligibilissimo, perché il protagonista non sa chi è Gig Robot, quindi non c'è problema. Senti, Gabriele, perché un supereroe di questo tipo a Roma? Perché secondo me ce n'è bisogno di un supereroe di questo tipo. Guarda, ti dico una cosa, io quando abbiamo perché abbiamo scelto proprio un delinquente di Tor Bella Monaca, perché ci piaceva pensare, siccome in Italia veramente c'è un tripudio di egoismo e di un guardarsi solamente il proprio orticello e curarselo, abbiamo pensato chi più di tutti, proprio che non ha nulla, ha tutte le ragioni del mondo di non vedere il superpotere come una responsabilità, ma soltanto come un privilegio, come quello che poi dopo noi qui a Roma chiamiamo la svolta. Enzo Ceccotti, questo però non significa che questa persona non possa fare invece un percorso catartico e cambiare ed accorgersi e guardare il prossimo. Quindi è proprio un po' una sorta di speranza, capito? Cioè, sì. Più di lui aveva tutte le scuse per dire: oh, io nella vita non ho avuto nulla, anzi la vita mi ha portato via tutto quello che avevo e non voglio più avere a che fare con la vita per paura che possa portarmi via quello che posso incontrare. Nello specifico qui nel film incontra una ragazza che gli fa da grillo parlante, però piano piano proprio questa relazione, questo rapporto d'amore profondo, non l'amore mandi messaggi, queste cose, gli dà la forza di accorgersi del mondo che gli sta attorno e forse di capire che quel potere che c'ha forse può servire per aiutare gli altri. Però ci mette tanto, perché lui super delinque per gran parte del film. Eh sì. Più luci che più ombre che luci questo supereroe. Gabriele, dall'idea di partenza, poi rispetto alla sceneggiatura, su cosa avete puntato? Come avete lavorato? Dall'idea di partenza, in che senso? Rispetto all'idea di partenza, poi il lavoro di sceneggiatura come è stato? Il lavoro di sceneggiatura è stato un continuo divenire, fino veramente a, sai com'è il cinema, la sceneggiatura non è un romanzo chiuso e definito, è un'impalcatura, sono le fondamenta di quello che poi dopo è la storia, che poi dopo prende un corpo continuo nel recitare con gli attori, nelle prove, nel montare il film, nel mettere la musica. E devo dire che però ha fatto un grandissimo lavoro di preparazione e soprattutto di sceneggiatura, e l'abbiamo scritta tantissime volte, credo siamo arrivati, non so, a 12-13 stesure per arrivare a delineare con precisione questi tre protagonisti che a mio avviso sono l'ancora per la sospensione dell'incredulità dello spettatore, cioè sono talmente veri, talmente emozionanti che ti portano in questo viaggio che poi dopo si sviluppa in una fiaba urbana di supereroi e superpotenza, però siamo ancorati con loro molto alla realtà, tant'è che il personaggio di Enzo, come dicevo, un delinquente di Tor Bella Monaca, ma che vive di scippi e furtarelli. La bella della situazione è una ragazza che abita al piano di sotto e che ha vissuto dei momenti veramente difficili nella propria vita e quindi si rifugia come una bambina in questo mondo di Gigrobo, guardando compulsivamente un DVD player dove ci sta sempre la prima puntata del cartone, e lo Zingaro, che è un delinquente un pochino più affermato nel mondo della criminalità, che nel tempo, quando era ragazzo, aveva cercato di svoltare come interprete canoro a Buona Domenica, ma non ce l'aveva fatta e quindi adesso la sua svolta è diventare un grande della criminalità, attento a tutte le visualizzazioni su YouTube. Quindi è un Narciso molto interessante, un nostro Joker fighissimo che canta le canzoni pop italiane delle grandi icone femminili degli anni 80-90, insomma. Senti Gabriele, mi sembra che le prime risposte in Italia siano molto interessanti, molto positive, e anche curiosità all'estero per questo prodotto. Beh, in America già l'hanno comprato e c'è una grandissima, cioè la curiosità sta proprio, è come una sorta di, sta andando avanti tutto per super inerzia. Adesso mi hanno appena chiamato, mi hanno detto devi andare in Giordania, devi andare a Varsavia, devi andare in Francia, devi andare ad Amsterdam, perché il film, ripeto, per quanto poi dopo, no, sai, c'è sempre questa grande resistenza al romano in Italia, ma non è romanocentrico, ripeto, parla di una storia identitaria, di questo ragazzo, di quest'uomo che crede poco in se stesso e nella relazione acquista solidità. E c'è un cattivo che fa di tutto perché questa cosa non avvenga, e questo passa, perché quando racconti, secondo me, con obiettività il microcosmo, quindi la nostra particolarità, aggiungi al macrocosmo delle cose che possono essere interessanti. Quindi mi fa piacere che venga accolto in modo trasversale da tutti, sia da un ragazzino che è una persona molto matura, e la cosa più bella è quando viene capito anche dalle persone che non parlano la tua stessa lingua. Gabriele, ma con un bagno nel Tevere si potrebbero acquistare dei superpoteri, quindi? Ma sicuramente sì, secondo me, con tutto quello che c'è nel Tevere, l'idea è stata proprio quella, ma dove puoi incontrare lui una sostanza radioattiva che comunque gli può dare questa super forza? Ma nel Tevere, lì c'è qualsiasi cosa, ci hanno buttato, chissà che cosa c'è, guarda, i fratelli Coen secondo me ci potrebbero fare un film meraviglioso sul Tevere di Roma. Gabriele, da oggi nelle sale, e in quante sale sarà? 256 sale. Oh, numeroni proprio. Numeroni per un film indipendente, sì, però ripeto, ha riscosso tanto successo, piace. Emoziona, ti diverti, ti esalti, quindi alla fine la distribuzione ci ha creduto tantissimo. Abbiamo fatto il giro dell'Italia con una serie di anteprime, nord, sud, centro, accolto con grande calore, quindi speriamo bene, incrociamo le dita. Bene, allora t'abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi, grazie mille per lo spazio. Ciao Gabriele. Gabriele Mainetti, regista del film Lo chiamavano Gig Robot, in uscita in sala oggi giovedì 25 febbraio. Eccoci con Maurizio Di Rienzo, ben ritrovato caro. Grazie a voi, ottimo orario per dare delle belle notizie. Sempre in giro per l'Italia, stasera però devi stare qui a Roma. Sì, no, un breve momento. Devo essere a Roma, sì, perché ci sono i nastri per il documentario del 2015 e l'edizione articolata in occasione anche dei 70 anni della nostra associazione, che continua a chiamarsi sindacato, ma va bene così, Nazionale Giornalisti Cinematografici, e quindi abbiamo elargito con competenza, però senza esagerare, dei riconoscimenti in un'annata in cui abbiamo preselezionato secondo il regolamento, però moltissimi documentari, per la precisione ben 44 di Cinema del Reale che abbiano avuto una visibilità oltre che festivaliera anche in on video, piuttosto che in televisione, piuttosto che in circuiti sia pure alternativi, e 46 documentari di argomento cinema e spettacolo, intendendo per spettacolo teatro, musica, rock, jazz soprattutto e altre cose. Quindi sono 90 documentari sui quali abbiamo, diciamo, lavorato, pensato eccetera. In più c'è una categoria in sezione, non dico nuova, ma insomma ormai affidata anche questa all'impatto con le persone, perché il docufilm, cioè quei film che sempre più numerosi, sempre più importanti, sempre più compiuti e aderenti alla realtà, stanno fra la finzione, la drammaturgia costruita, un valore documentario anche esteticamente. E quindi è una cinquina secca che però abbiamo inquadrato. Questa. Maurizio, tra l'altro, uno degli ospiti di questa sera, uno dei diretti interessati, lo abbiamo avuto poco tempo fa, pochi minuti fa, Gianluca Cerasola per Astro Samantha. Come leggevo qui nella mia posta elettronica, abbiamo già dei risultati noti, perché leggo di Louisiana, per esempio. Sì, oggi pomeriggio abbiamo, dopo una serie di anticipazioni che hanno compreso anche questa straordinaria donna nella sua apparente normalità, che è Samantha Cristoforetti, astronauta, sulla quale è stato realizzato un documentario, che la vede protagonista, abbiamo pensato che fosse la donna protagonista dei documentari. Ci possono essere anche persone protagoniste, come fosse un film, nel senso migliore del termine, quindi l'abbiamo premiata. Naturalmente la Cristoforetti in giro, un po' blindata, ma siamo riusciti privatamente a premiarla. E poi abbiamo i vincitori, possiamo dire che nella cinquina dei film del Reale ha vinto Louisiana, The Other State, il quarto film di Roberto Minervini, che in questo momento è a Città del Messico a fare dei sopralluoghi per un altro lavoro, perché lui vive in Texas. Dopo la trilogia del Texas ha realizzato questo Louisiana, The Other State, che è stato invitato a Sette Regali di Cannes l'anno scorso. Tra l'altro ne avevamo parlato proprio con lui, ospite, nei momenti in cui era in Italia, proprio per parlare di Louisiana. Sì, è un film molto, molto importante, di taglio sicuramente documentaristico, ma in cui anche qui la narrazione svolge un ruolo fondamentale. E oltre che la conoscenza del territorio, la fiducia tra il regista, la sua troupe leggerissima e le persone un po' borderline, persone ribelli rispetto al concetto di Stato, di vita sociale, di sogno americano o deluse dal sogno americano, vivono nelle paludi, nelle periferie delle città della Louisiana, quindi profondo sud. E poi ha vinto invece... abbiamo qui la lista, abbiamo qui la lista, abbiamo qui la lista, ho aperto ora la lista. Ah, ecco. Che mi dice... Bella e perduta di Pietro Marcello. Sì, ridoco firma, hai ragione. Bella e perduta di Pietro Marcello, Locarno 2015. Poi è uscito, è un film girato nella Terra dei Fuochi, ma che attraverso fiaba, poesia, metafora, una maschera di Pulcinella e un bufalo sarchiapone da salvare, racconta la perdita di un territorio e del valore anche culturale di insediamenti e di stratificazioni di epoche. Pietro Marcello ha fatto un gran film. Poi leggo sempre nella lista Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, che abbiamo sentito giovedì scorso. Beh, è un'eccezione, nel senso che speciale, è 2016, sì. Ma in ogni caso prima che fosse decretato l'Orso d'Oro, 48 ore dopo aver visto il film, abbiamo pensato che Gianfranco meritasse da subito un riconoscimento, perché tutto il suo film è partito da lontano, da un anno e mezzo abbondante fa, quindi l'abbiamo considerato una specie di prolungamento, di protesi del 2015, e avendo poi vinto addirittura a Berlino, ma poi lo ripeto, è successivo i 5-6 giorni alla nostra decisione. È un asso speciale, perché si tratta davvero di un film speciale che dovrebbe ricondurre qualcuno nella testa e negli atti anche alla normalità, senza demagogia, ma alla normalità, per far capire cos'è Lampedusa, cosa è diventato e che crocevia è, e soprattutto come si filmano alcuni eventi e le popolazioni che questi eventi, da questi eventi vengono colpiti, assorbiti, invasi addirittura. Poi ve leggo film sul cinema, Alfredo Bini, ospite inatteso di Simone Isola. Sì, Simone Isola della Chimera Film, la stessa produzione che ha prodotto Mastandrea, appunto, Artefice, il film di Claudio Carigari, Nessuno resti solo, mi pare, è un film bellissimo che è andato al Festival di Venezia, è l'ultimo film di Carigari. In questo caso Simone da solo ha realizzato un film su Alfredo Bini. Chi è Alfredo Bini? Alfredo Bini è stato un produttore per caso, che poi lo è diventato davvero molto importante per film di Bolognini e soprattutto per tutto il Pasolini fino a Teorema. E sono 50 anni esatti dall'Edipo Re, e lui ha realizzato questo film sugli ultimi giorni, momenti della vita di Alfredo Bini, sull'Aurelia, in un posto così amichevolmente ospitale ma lontano dal cinema, che aveva abbandonato e che da cui era stato anche abbandonato. Era in concorso anche documentari sui Taviani, sulla Vermuller, su Franco Indovina, un bellissimo lavoro di Alex Infascelli, questo lo segnalo perché se vi capita vedetelo, sull'autista italiano di origine di Stanley Kubrick, è veramente un lavoro notevole. Quindi diciamo che c'è stato un testa a testa, ma poi ha prevalso la voglia anche di ricordare una persona importante e sottovalutata, perché noi ci sono soltanto Ponti, De Laurentiis, Cristaldi di quell'epoca lì come produttori, Lombardo e via dicendo. Alfredo Bini ha fatto molto per il nostro cinema. Poi leggo come speciale, Ridendo e scherzando, Ritratto di un regista all'italiana di Paola e Silvia Scola. Purtroppo a gennaio è arrivata questa notizia, Ettore si è aggravato in pochi giorni, Ettore Scola, e quel documentario sarebbe stato tranquillamente in cinquina, però ci sembrava fare un giusto omaggio a tutta una famiglia, a tutto un gruppo di lavoro, a un affetto filiale non banale e al suo insegnamento. Quindi Ridendo e scherzando abbiamo pensato di ricordare Ettore Scola con un altro premio, insomma un ricordo speciale. La parola premio sembra anche riduttiva e inopportuna, quindi anche questo è un nastro d'argento, però, perché il film contiene tanta umanità e anche autoironia, ovviamente trattandosi di Ettore Scola. Per i cinque dei nastri d'argento mi piace notare, insomma, che sono stati tutti e cinque già ospiti qui in trasmissione a Visionare, insomma. c'è quel Napoli, intendi dire i cinque vincitori? I cinque vincitori, esattamente. Ah, perfetto, i due speciali e i tre straordinari, esatto. Ma se vai a guardare, scusami, mi permetto, Pietro Marcello, la Simone Isola si farà, perché secondo me ha lo spirito del documentarista, del regista, è molto giovane e lo annovero fra le cosiddette promesse, ma se pensiamo a Pietro Marcello, a Roberto Minervini, a Gianfranco Rosi, sono tre dei forse 5-6 registi italiani che davvero hanno qualcosa da raccontare. Senti, è capitato un'annata in cui tutti e tre hanno lavorato. Ho visto che ci sei in diretta e ho qui la lista. A questo punto do lettura rapida anche delle altre menzioni. Sì, premi dei 70 anni, altri riconoscimenti speciali: Gianfranco Pannone e Antonietta De Lillo. Il segreto di Otello di Francesco Ranieri Martinotti. Film studio Mon Amour di Tony D'Angelo, che abbiamo avuto ospite se non giovedì scorso, quello precedente. Sì, permetti, scusa Federico, per sottolineare il fatto che proprio nei nostri 70 anni due film, uno che racconta quel famoso ristorante in cui anche Scola, Scarpelli andavano tutti lì una volta, e il film studio di cui non si sa ancora, non sa più nulla dopo un anno chiuso, da un anno è chiuso, che è stato cucina importantissima di visioni e di discussioni dagli anni, fino agli anni 60 in poi. Ecco, ci pareva bello segnalare queste due iniziative che guardano al passato, naturalmente con un occhio però verso il pragmatico futuro. Poi per Cinema del Reale, Esuli, Le guerre di Barbara Cupisti, Torn, Strappati di Alessandro Gassman, 87 ore di Costanza Quatriglio, come dicevi te, come ricordavi tu, Samantha Cristoforetti come personaggio dell'anno. E poi per menzioni speciali, La voce di Pasolini di Matteo Cerami e Mario Sesti, Paolo Pasolini Maestro Corsaro di Emanuela Audisio, Harry Sbar di Carlotta Cerquetti, Street Opera di Haider Rashid e prima di tutto di Marco Simon Puccioni. Sì, sono articolati in diversa maniera perché alcuni appartengono a una sezione cinema seriale, altri ad altri. Quei tre su Pasolini, anche perché c'è il terzo, quello forse più bello, di Maria Pia Ammirati, Cola Santi e Marcellini. Pasolini, il corpo e la voce, che contiene immagini di Rai Te che è anche inedite e che ha inquadrato davvero il senso, il valore della personalità attraverso appunto un lavoro di montaggio notevole, di archivio notevole. Ecco, sono tre film che sono usciti venuti fuori l'anno scorso in occasione evidentemente e fanno il paio con il premio Alfredo Bini, ma non perché era una ricorrenza, perché insomma ripetita Juvent, come si dovrebbe dire nell'URB, quindi diciamo che sono tre sguardi speciali. Come mi permetto di aggiungere un attimo quei tre sguardi speciali di Gassman in Siria, di Costanza Quatriglio su un fattaccio avvenuto nel nostro sud, purtroppo una morte dopo un trattamento sanitario obbligatorio che è diventato un 87 ore di calvario per una persona qualche anno fa, e poi Barbara Cupisti con uno dei suoi tre film a tema Esuli, Le guerre, ecco, che hanno toccato tre punti nevralgici del mondo, dei diritti anche personali insomma, delle tragedie che sono in giro, e ci sembrava che dovesse avere una cornice, insomma una menzione particolare. Maurizio, come sarà articolata la serata di questa sera al Casa del Cinema? Facciamo come i sorteggi delle coppe di calcio, a sorpresa esce uno dal bussolotto, uno si premia, non è vero, no, credo che Gianfranco Rosi all'inizio verrà e sarà festeggiato perché deve scappare una diretta televisiva, poi daremo un altro a Scola, credo che cominceremo alle 8:15, 8:20 e poi via via, una scaletta precisa non la conosco, ma ci sarà un po' un crescendo. Sicuramente dovrebbero esserci tutti i vincitori. Minervini purtroppo speriamo di averlo in collegamento via Skype, ma in questo momento credo che stia andando in Messico dal suo Texas, e quindi sarà un po' complicato, però ci ha scritto una bella lettera e quindi si articolerà fra una segnalazione, una menzione e un nastro. E mi piace ricordare Antonietta De Lillo e Gianfranco Pannone, che hanno realizzato due cose l'anno scorso molto importanti, a coronare una carriera che per entrambi significa che sono a metà della loro vita. Antonietta De Lillo ha realizzato quel film Partecipato, Oggi insieme domani anche, sul tema dell'amore, anche divertente, ed è un nuovo modo di fare cinema attraverso filmati altrui, di dilettanti tra virgolette e di professionisti amici, e lei con la Mare Chiaro Film galoppa su questi territori da tempo ed è davvero un importante modo di guardare la realtà, anche nuovo, e in più Gianfranco Pannone, che faceva documentari quando non li faceva ancora o più nessuno a inizio anni 90, a soli 52 anni è praticamente il decano. Era il decano, lui si sente anche un po' così, padre di gente che magari sa 5-6 anni più di lui. E ha realizzato l'anno scorso quel lavoro sulle guardie svizzere in Vaticano, c'è riuscito a entrare, ha fatto l'esercito più piccolo del mondo, un bel documentario. Bravo lui, e anche che Gianfranco aveva una carriera comunque da grande escavatore, da grande rabdomante delle narrazioni. Quindi indicativamente a partire dalle ore 20, giusto Maurizio? Sì, alle 20, okay. 20 e 15 dovremmo cominciare. E per le 6 di mattina finiamo come gli Oscar, sì, comodamente. Va bene. Un abbraccio, a più tardi, ciao Maurizio. Grazie Federico dello spazio che ci date, un abbraccio a tutti, salve, grazie. Maurizio Di Rienzo sui Nastri d'Argento Doc questa sera alla Casa del Cinema, oggi giovedì 25 febbraio. Avremmo dovuto avere ospite anche Carlo Griseri per parlare della seconda edizione del CU Sound International Music Film Festival a Torino da oggi al 28 febbraio. Non riusciamo a riprendere il collegamento, lo avevamo sentito poco prima di andare in onda. A questo punto diamo solo questa indicazione: seconda edizione per questo festival, che avevamo avuto ospite anche nella scorsa edizione lo scorso anno, ricordiamo, a Torino dal 25 al 28 febbraio. Con questo terminiamo la puntata settimanale di Visionari, che torna giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15.